in primo piano. È la svolta storica avvenuta peraltro nella notte, come abbiamo sentito in GR24, negli Stati Uniti, vale a dire l'approvazione della Camera della riforma della sanità. Questo è il tema che detta l'apertura di alcuni giornali. Il Corriere: sanità, Obama insegue la storia. La Repubblica: sanità, la svolta storica di Obama. E anche La Stampa: sanità, via libera a Obama. Mentre chi si concentra sull'attualità nostra, il Messaggero: Berlusconi no al duello TV con Bersani. Il Giornale: effetto Silvio, il vento è cambiato. Mentre l'Unità mette alcuni palloncini colorati con debelleremo il cancro in 3 anni, qui comanda magistratura democratica, in piazza Roma eravamo 1 milione, alcune delle frasi di Berlusconi, balle da paura. Questo il titolo dell'Unità. Il Sole 24 Ore, l'apertura del lunedì: sanità in rosso per 4 miliardi. Beh, bello l'accostamento, anche se un po' impietoso, con la riforma della sanità che nella notte ha avuto un primo sì dalla Camera, una riforma voluta da Barack Obama e su cui si concentrano i giornali, i più importanti quotidiani. Per esempio il Corriere a pagina 2 spiega che cosa prevede la riforma, come funziona oggi il sistema sanitario, perché è necessario il cambiamento, cosa prevede la riforma. Una riforma che è stata voluta da Obama molto fortemente, tanto che a pagina 3 c'è l'articolo "Fare la storia o perdere tutto", una sfida giocata in questi 2 mesi da Obama, una sfida anche passata attraverso un accordo, come segnalano sia il Corriere sia La Stampa, un accordo importante, vale a dire: le resistenze più forti erano i più difficili da convincere, scrive per esempio il Corriere della Sera, pagina 2, sono stati le persone che erano contrarie all'aborto, perché erano preoccupati che la nuova sanità potesse dare scarse garanzie, che fondi federali non servissero a rimborsare spese per interruzioni di maternità. E allora ecco qui l'accordo decisivo per convincere i democratici pro-life, dunque quelli del fronte di Obama, ma molto contrari all'aborto. Obama ha promesso di dare l'assenso a un ordine esecutivo presidenziale che riaffermi il bando a ogni finanziamento pubblico degli aborti, tranne in casi di stupro, incesto o se la madre è in pericolo. Firmerà questo ordine esecutivo subito dopo l'adozione definitiva della riforma sanitaria, e così si sono convinti anche i democratici più acerrimi nemici dell'aborto di firmare questa riforma. Trovate anche un commento interessante di Lucia Annunziata in prima pagina della Stampa dal titolo "Ma le insidie non sono ancora finite", dedicato a questo tema. In ogni caso, l'attualità internazionale legata a questa c'è anche quella del Medio Oriente, come detto, perché tra l'altro domani il premier israeliano Netanyahu sarà proprio da Barack Obama alla Casa Bianca. Ci sono state forti tensioni nei giorni scorsi per alcuni insediamenti, alcune costruzioni, alcune edificazioni che Israele ha programmato nella zona di Gerusalemme Est, quella diciamo a maggioranza di concentrazione di popolazione araba, che però è sotto il controllo di Israele, e ha ribadito Netanyahu: costruire per noi a Gerusalemme è come costruire a Tel Aviv, voglio che questo sia chiaro agli Stati Uniti. E dunque Gerusalemme Est fa parte e deve far parte dello Stato israeliano. Ci sono stati nei giorni scorsi ancora qualche uccisione, uccisi 4 palestinesi. E c'è stato il segretario generale dell'ONU che ieri era a Gaza e ha detto: a Gaza basta l'embargo. Repubblica titola: a Gaza sofferenze inaccettabili. Lo ricordo perché è il tema del nostro sondaggio. Che ne pensate dell'ipotesi, tra l'altro, della diplomazia occidentale che nei giorni scorsi ha detto: entro 2 anni ci vogliono 2 stati, Israele e Palestina, che vivano fianco a fianco? Che ne pensate, un'ipotesi che vi sembra fattibile? Votate come sempre su radio24.it nella home page, ci trovate bianco o nero, e poi ne parleremo alle 8.30. Veniamo alla politica italiana, lasciando l'attualità internazionale. La politica italiana è la settimana ultima, fortunatamente, prima delle elezioni. Il tema del giorno sembra, incredibilmente, la rissa sui numeri, i numeri di quanti erano in piazza con il Popolo della Libertà sabato scorso. Per il Corriere della Sera c'è questa, diciamo, discrepanza notevole, più di 1 milione, ha detto Dennis Verdini, vale a dire uno dei coordinatori del partito, 150.000 secondo la questura. Il PDL contro la questura, leggo dal Corriere, assurdi i numeri sulla gente in piazza. Il premier, peraltro Berlusconi, ieri si è tenuto lontano dai numeri, ha detto solo, posso solo dire che mi sono emozionato ed ero commosso. C'è anche un fronte, secondo il Corriere, scrive Fiorenza Sazzanini, un po' di tensione tra il PDL e il ministro Maroni, che tra l'altro appunto è a capo del Viminale. E dunque Maroni dice: noi dal Viminale diamo sempre dati certi, diciamo la verità come al solito. Si ricostruisce che cosa è successo. È successo che quella sera, quando Verdini ha detto 1 milione, dalla questura invece alle 20 è arrivato il conteggio finale che oscillava tra le 120 e le 140.000 persone, che viene comunicato ai vertici della polizia. A questo punto, vista la discrepanza, che si fa? Si chiama il ministro Maroni, questa è la ricostruzione del Corriere, la differenza d'altronde del dato è evidente, e Maroni dice: procediamo come al solito e diciamo la verità. E nessuno ovviamente poi immagina le reazioni successive, anche molto dure. Per esempio, quella più dura è stata di Gasparri, citata dal Corriere, evidenziata in un'intera pagina dall'Unità. Che cosa ha detto Gasparri sul questore di Roma Giuseppe Caruso? Ha avuto, evidentemente, era in preda a una crisi etilica, oppure era in preda a stress. Questo Gasparri, tanto che l'Unità titola Gasparri contro il questore, dati falsi, ha bevuto. Insomma, questo, si discute molto di questo, un po' si discute alcuni titoli, Berlusconi nessun duello con TV con Bersani, questo è addirittura l'apertura del Messaggero, cioè la notizia politica del giorno per il Messaggero. Ripeto, manca una settimana alle elezioni, tenete duro per quel che riguarda questa settimana, ne sentiremo ovviamente delle altre. Come al solito, io lo sottolineo tutti i giorni, di politica concreta si parla ben poco. Su Repubblica voglio citare che cosa? La posizione di Fini, che non c'era. E il giornale ieri l'ha un po' stuzzicato dicendo: i presidenti della Camera precedenti a lui sono andati alle manifestazioni. Anche oggi ancora il condirettore Alessandro Sallusti lo scrive in prima pagina, poi arriva Repubblica, ma quando Sallusti scrive: il PDL è Silvio Berlusconi, se parliamo di vincere le elezioni e non di discutere del sesso degli angeli, l'unica cosa che funziona è il cavaliere. Sarà perché la gente si fida di lui, sarà perché il cofondatore Fini, quando c'è da contarsi, si dà malato. Eccolo qui. Questa volta la scusa è stata la carica istituzionale, insomma l'ennesima stoccata del giornale a Fini. Dicevamo, Fini, secondo Repubblica, secondo Francesco Bei, eccolo qui, non gli è piaciuto il giuramento dei governatori con la mano sul cuore, che come tanti scolaretti recitavano la promessa del governo del fare, né i toni da tifoseria di alcuni. E un virgolettato di Fini: io lavoro per cambiare il partito, non sto facendo però un altro partito e non ho intenzione di farmi espellere, dunque nessuno strappo. Un'altra notizia che farà un po' discutere sulla politica la ritira fuori Il Giornale, a pagina 9, Gianmarco Chiocci e Massimo Malpica. Di cosa parlano? Di una famosa cena di cui si era parlato peraltro un po' di tempo fa, una cena in cui erano presenti Giampaolo Tarantini, ormai il famoso imprenditore che è anche quello che procurava, portava l'escort sia a Palazzo Grazioli, sia ora si è saputo anche al ex vicepresidente della Regione Puglia, Frisullo. Giampaolo Tarantini a cena con Massimo D'Alema e il sindaco di Bari Emiliano. È una cena di cui si era molto parlato, perché all'epoca D'Alema disse: sì, sono arrivato a quella cena organizzata da Tarantini, sono rimasto 10 minuti, addirittura il sindaco Emiliano ha detto: riconobbi subito Tarantini perché io sono un ex magistrato, appena l'ho visto ho sentito puzza di bruciato, appena è arrivato D'Alema l'ho tenuto 10 minuti e poi siamo andati via, per non immischiarci insomma con certa gente. Ora, la vera storia della cena D'Alema-Tarantini la pubblica Il Giornale. Lo fa pubblicando alcune intercettazioni di chi? Di persone che c'erano a quella cena e che il giorno dopo si parlano al telefono. Uno di questi è l'ex assessore Alberto Tedesco, che con alcuni amici chiacchiera e dice, per esempio, ti rendi conto che vengo invitato a una cena con D'Alema organizzata dai più feroci concorrenti dei miei figli, dai Tarantini, che sono dei banditi nati, dovrebbero stare in galera o stanno ancora a piede libero in giro. Sono dei fornitori, hanno utilizzato i metodi più delinquenziali del mondo e fanno la cena a D'Alema. E poi parlano, insomma, con chi c'era anche questa Lea Cosentino, ex direttore generale dell'AS di Bari, che dice, per esempio, in una di queste intercettazioni, io ero a questa cena, a me, io D'Alema stava al numero uno, io stavo al numero due seduta, cioè come dire, era seduto lui al posto d'onore accanto a lei. Secondo queste intercettazioni per il giornale, insomma, questa cena non durò lo spazio di 10 minuti, il tempo di accorgersi che era sconveniente stare lì, ma fu una cena vera e propria. Una citazione di Politica prima di andare vera, prima di andare al traffico, un'intervista al ministro del welfare Sacconi che dice sul Messaggero a pagina 5, intervistato da Diodato Pirone: appena ci saranno le regionali, bisogna, come primo punto, fare le nuove linee guida per la formazione professionale. Un'intesa con le parti sociali già firmata anche con la CGIL, bisogna individuare i mestieri che servono al mercato, certificazioni non formalistiche dei corsi, formazione che deve essere fatta in azienda. Questa è la prima cosa che i nuovi governatori delle regioni dovranno fare. E poi il titolo: ora una spinta alle riforme, formazione e sanità, questi sono i temi, dalle regionali deve venire un colpo d'acceleratore su questi temi, formazione e sanità. E proprio dalla sanità ripartiamo dopo il traffico, vedendo quella che è l'apertura del Sole 24 Ore, abbastanza scoraggiante, perché si parla di deficit sanitari in Italia. In primo piano. Sanità in rosso per 4 miliardi, questo è il titolo davvero poco simpatico, oserei dire, del Sole 24 Ore di oggi in edicola. Sono i primi risultati sui bilanci del 2009 che il Ministero del Tesoro ha fatto sulla sanità delle varie regioni, una bella gatta da pelare per i governatori che arrivano. Un rosso complessivo, come detto, di 4 miliardi, 13 le regioni che nel 2009 hanno cumulato un deficit sanitario di 3,4 miliardi, a cui vanno aggiunto i 755 milioni di euro già ripianati utilizzando i bilanci regionali. Situazione decisamente migliore invece per le altre 8 regioni che escono promosse dall'esame dei conti sanitari. Allora, in corsia il deficit continua a crescere, tra l'altro la sanità, come sapete, è quella che si prende il 70% anche di più forse del nostro bilancio per quel che riguarda le regioni, e quindi è il settore più remunerativo e purtroppo di deficit maggiore. C'è a pagina 3 del Sole 24 Ore l'elenco di tutte le regioni. Ecco qui sostanzialmente chi è inattivo, come la Lombardia, come il Piemonte, come la Toscana, come l'Umbria, di chi 29 milioni, 17 milioni, 14 milioni. Chi invece sono le regioni in perdita? La Liguria perde 97 milioni. Beh, abbiamo detto il Lazio, 1 miliardo e 374 milioni di deficit. E poi ci sono anche moltissime regioni che sono commissariate, alcune che sono sostanzialmente con i piani di rientro, come sottolinea il suo editoriale Roberto Turno, un macigno sui nuovi governatori. Come detto, 29 miliardi accumulati dal 2003 al 2009 valgono due leggi finanziarie di media taglia. Sono anche altri numeri che devono far riflettere. Per più di 23 milioni di cittadini, il 39% del totale, la sanità pubblica è sotto tutela, commissariata per il 22% degli italiani e solo con piano di rientro per l'altro 17%. Sono tutti al sud, fatta eccezione per la Liguria. Per tacere di sprechi, clientelismo, corruzione, collusioni con la mafia e dei servizi scadenti, la tutela sanitaria più bassa che fa scappare al nord in cerca di cure, e dei crediti alle imprese saldati dopo 2 anni, ticket addizionali incorporate, insomma un elenco disastroso. Questo lo leggete sul Sole 24 Ore. Sempre sul Sole 24 Ore sottolineo, visto che si va a votare nelle 13 regioni domenica, c'è un esame dei sistemi elettorali. Regione che vai, voto che trovi. La base per tutti è il cosiddetto Tattarellum, no? Voluto da Pinuccio Tattarella soprattutto nel 95, poi ogni regione l'ha recepito in modo diverso, cioè chi ha il listino, chi non ha il listino, chi ha la soglia di sbarramento al 3%, chi ce l'ha al 4%, chi può far esprimere le preferenze, chi non fa esprimere le preferenze, insomma un ginepraio di leggi a pagina 2 del Sole 24 Ore nelle regioni, la babele elettorale. Volete sapere nella vostra regione come si vota, qual è il sistema elettorale? Sono cose un po' tecniche, ma anche interessante capire che appunto in ogni regione si vota in modo diverso. Per le segnalazioni conclusive voglio dire che c'è molto ancora sulla Chiesa e sulla lettera del Papa alla Chiesa irlandese. Trovate molto, ma è un argomento che voglio saltare per andare ad altre cose. Primo, La Stampa, burocrazia, quanto ti odio. È la prima, un rapporto di Cittadinanza Attiva che è stato fatto col sostegno del Dipartimento della Funzione Pubblica, che è reso noto e che, di cui oggi parla solamente La Stampa, sul quanto gli italiani odiano la burocrazia. Cosa sono le cose che fanno più impazzire gli italiani? L'ottusità della pubblica amministrazione, la mancanza di trasparenza da parte chi deve erogare i servizi e soprattutto gli appalti poco trasparenti, l'autocertificazione, difficile trovare un'amministrazione che l'accetti, le cancellerie dei tribunali, ottenere un documento lì è un'odissea e così via. Trovate a pagina 13 della Stampa, burocrazia, quanto ti odio, dalle code alle informazioni vaghe e contraddittorie, quello che gli italiani odiano di più della burocrazia. Sempre dalla Stampa voglio segnalare 100.000 disoccupati per colpa della pirateria. L'allarme sono i dati dell'Unione Europea, a rischio i settori cinema e musica perché scarichiamo dalla rete. Infine c'è Walter Veltroni che fa un intero articolo di appello in pagina 23 del Corriere della Sera al ministro Alfano. L'argomento è: caro ministro, gentile ministro Alfano, ecco tutti i dubbi della vicenda che ha portato all'uccisione di Pasolini, bisogna riaprire il caso Spadolini e Pasolini per l'appunto. Pagina 23 del Corriere, Walter Veltroni fa un invito proprio al ministro Alfano, dice: vorrei chiederle di riaprire il caso, con la moderna tecnologia investigativa si può scoprire, come nel caso di Via Poma, nuove verità su chi ha ucciso Pasolini, non solo Pelosi, forse non era da solo. Questa è l'ultima segnalazione, votate allora il sondaggio su radio24.it, Israele e Palestina, due stati in due anni, vi sembra un'ipotesi fattibile? Ne parleremo poi alle 8.30, ora GR24.